Ad infilarvi gli scarponi per un viaggio nella neve della Nuoro Bene. Siete pronti a darvi guerra come lupacani, mangia solitari, spiega vele d'adesivi ragnatele. Scorpacciata di pane scordato, dimenticata a casa l'accordatore cromatico. Dico, sul finale si è fuso il finale, cambierò il finale, tanto è morto se finisce male o in mani a mare. Qui la scelta è farsi fare o farsi fare. Non farsi sopraffare, fai fare. Non avere fretta, non usare calma. Provo ad aspettare l'alba, l'alba. Qui la scelta è farsi fare o farsi fare. Non farsi sopraffare, fai fare. Non avere fretta, non usare calma. Provo ad aspettare l'alba, l'alba. Qui la scelta è farsi fare o farsi fare. Non farsi sopraffare, fai fare. Non avere fretta, non usare calma. Prova ad aspettare l'alba. Carichi cosa, motherfucker!